il silenzio di Dio nella teologia, essendo trentino di adozione, non ha bisogno di presentazione, perché anzi dovrebbero essere i trentini che lo conoscono molto meglio di me a presentarcelo e a presentarmelo. La parola al professor Gian Piero Bocca. Grazie. Ma io desidererei cambiare un po' il tema più o meno abbozzato in precedenza della mia comunicazione, per una ragione che mi sembra plausibile almeno. Io qui sono, tra tanti filosofi che hanno parlato, rappresento un po' una sponda, mi interessa un po' di teologia. E allora ho pensato che fosse più opportuno, anche perché è mancato, per ottime ragioni, no? Il dibattito, e mi è sembrato opportuno rappresentare qui un po' una mia reazione a quello che è stato proposto o quantomeno richiamato. E allora le poche cose che dirò proprio vorrebbero essere l'espressione di questa mia reazione, che peraltro non può essere altro che la sottolineatura di alcuni temi, di alcuni problemi, ecco, non altro, ma mi pare che sia opportuno. Un discorso che direi dovrebbe essere rivolto più che a coloro che mi ascoltano, ai teologi, ai miei colleghi o eventualmente a qualche mio alunno, che peraltro vedo qui presente, quindi a voi particolarmente in questo momento. Ebbene, abbiamo ascoltato ieri la trionfante e soddisfatta iconoclastia di Dario Antiser, il quale ha tentato di demarcare un mondo, quello della scienza e della razionalità, della parola sonante, della comunicazione senza ombre, della organizzazione totale. Parola piena quella a cui si riferiva Antiseri, piena perché dice solo se stessa, avendo rotto fondamentalmente, indicata anzi, ogni referenza all'altro da sé. Comunicazione perfetta, perché propriamente non dice nulla. Organizzazione che garantisce il conto, come copertura di della quella che possiamo ben chiamarla un'Einheit. Almeno sin che all'uomo non è stato il sentire, il fühlen di questa un'Einheit. Già da questo mondo, Antiseri lo ha affermato, si dà uno spazio, un ampio spazio, cioè uno spazio turgido, asistemico, irrazionale. In quello spazio però già da sempre l'uomo abita, e di lì muovono anche i suoi passi per le incursioni in questo mondo del razionale. Ma soprattutto in quello spazio l'uomo abita e ritorna, in quanto è uomo estetico, in quanto è uomo politico, etico, religioso. Da sempre in questo spazio l'uomo costruisce i suoi giardini e le sue siepi, leva i suoi suoni e le sue grida, fa risuonare il suo canto, siede taciturno, soffre dei notturni silenzi, si finge interminati spazi, sovrumani silenzi e profondissima quiete. Ebbene, in questo terreno, in questo spazio, ha ritagliato i suoi settori, i suoi terreni, i suoi spazi, la ermeneutica della fede cristiana. Quel settore nel quale io mi muovo, la teologia. Teologia, costitutivamente dunque rapporto con la parola, essenzialmente parola. Una parola che si vuole umana sul fondamento di una originaria anzi di un originario dire di Dio. Dio trinitario, dice questa teologia cristiana. Un Dio che parla di per sé. Non è come diceva Monsignor Lodi questa mattina, prima di tutto un silenzio che dice la parola. È un parlante che dice se stesso in una parola che gli è eternamente, che è in Dio eternamente immanente. E si stabilisce così e viene un rapporto vivente fra dicente e parola, che proprio come tale rapporto, la fede cristiana riconosce espresso in quell'evento linguistico anch'esso, che è la Pentecoste. Ecco, la economia che apre alla parola il mistero vincendo l'ineffabile. Da questo punto di vista io penso che quella splendida visione che abbiamo ascoltato, che ci è stata presentata questa mattina dalla teologia orientale, abbia bisogno di qualche cristiano aggiustamento. Creazione mediante la parola è un tema essenziale del discorso cristiano. Creazione in Cristo significa, anche questa è una sottolineatura che mi sembra assolutamente importante, creazione rivelatrice, rivelazione creatrice, superando troppo tradizionali e acquisiti divari tra il mondo della creazione e il mondo della redenzione, certe accezioni di naturale, di soprannaturale, di una creazione come produrre e di una salvezza come istituire rapporti. Non sono soltanto accenni, non neppure nomino i temi quasi, ecco, ma vorrei appunto indicarli in questo, abitarli. Ma Giovanni ci spinge ancora oltre, e anche questo è un tema che io enuncio ora criticamente nei confronti di certe esposizioni, anche quelle delle teologie di questa mattina che sono state fatte. Ci spinge oltre quando ci dice che Dio è amore. Non c'è prima, cristianamente, non c'è prima un Dio parlante, un Dio parola o silenzio che si voglia, un Dio potente o onnipotente che poi si presenta, si dice e si fa e si rapporta come amore. È un amore che si dice. La priorità essenziale dell'amore rispetto a qualsiasi altro nome di Dio. Ecco, per me questo è un elemento essenziale. Un amore dicente, un amore creante che perciò, e io reagisco a Sergio Quinzio come altri già hanno fatto, non ha bisogno di allontanarsi per dar spazio alla libertà dell'uomo. Se questo è vero, allora ha ragione, diciamo, la formuletta, l'ateismo postulatorio. Al contrario, il Dio cristiano è un Dio che si afferma e si dice come quello che essenzialmente si fa prossimo, e facendosi prossimo costituisce, crea e dona e ridona la libertà all'uomo. O è così o è giusto e sarà così. Ecco, cioè questo mi pare proprio essenziale nella prospettiva cristiana. La parola di Dio, la voce di Dio non è una voce qualsiasi, non può essere una qualsiasi voce. Forse si poteva crederlo altrove che nella tradizione cristiana, ma qui l'esperienza cristiana mi pare abbia acquisito questo, che il Dio che essa presenta, il Dio cui essa si riferisce, è un Dio che parla. E la parola è essenzialmente Dio. E che dove c'è Dio, c'è la sua parola che dice il suo essere amore. E questo poi il punto ultimo, estremo del discorso cristiano, forse tragico. Ma dove Dio non parla, nella prospettiva cristiana, Dio non è. Dove Dio non dice il suo amore, Dio non è. Mi pare che sia questi alcuni tratti che la fede cristiana non può, non dico misconoscere, ma neppure porre in secondo piano. Ecco, il senso, io ce l'ha chiamato Buscaroli, e sono lieto che l'abbia detto, così salto tutto quello che avrei voluto dire in proposito. Ecco, il Verbo si è fatto carne e ha preso abitazione tra noi. E la liturgia, ce la ricordava al nostro allora di questa mattina, commenta: Dum medium silentium tenerent omnia, omnipotens sermo tuus, non dal silenzio, nel silenzio, a regalibus sedibus, è venuto. E tanto è evocata una sorta di contrapposizione tra questo sermo e questo silenzio. E quando questo sermo è identificato con il logos giovaneo, ecco, costituirsi una costellazione terminologica che ritengo sommamente importante, alla quale in questi ovvi e giustificatissimi motivi non è stato dato sufficiente peso, sufficiente sottolineatura. Al logos risponde la luce, al silenzio rispondono le tenebre, e si istituisce in questo modo il rapporto tra luce e tenebre, tra sermo, logos e silenzio, nella forma di un dramma. Un dramma quanto mai profondo, tale da mettere in gioco e dire all'uomo per salvezza e perdizione. Per questo la lontananza di Dio, il suo cessare dal dire, l'oblio di Dio, ecco un termine biblico, una categoria molto importante, la dimenticanza, è la fine di quell'evenire della creazione, di quell'evenire continuo che è la creazione, e che il suo ricordo sostiene. Chi è l'uomo che tu ti ricordi? Ecco, lo zikaron, il ricordo di Dio. Il ricordo di Dio è la creazione continua alla quale corrisponde il continuamente essere ricreato, cioè il dinamismo della creazione, che è la realtà della creazione, la dinamicità della creazione. Questa è la realtà che il cristianesimo, mi parla, la visione cristiana, biblico-cristiana, profila. Il silenzio, peraltro, in questi giorni l'abbiamo ascoltato, è un fenomeno sommamente complesso. Mi pare che la sua definizione fondamentale, però, risulti dal suo articolarsi con la parola. Così che sul silenzio si riflette tutta la complessità della parola. Non credo che questi giorni abbiano compiuto una fenomenologia della parola o del silenzio, ma sicuramente gli elementi da raccogliersi sono ricchissimi, almeno questa è stata la mia impressione. Ma neanche parso che il silenzio abbia bisogno della parola come quella che disegna lo spazio nel quale il silenzio diviene eloquente. Mi pare che proprio grazie alla parola il silenzio possa quasi coagulare in senso. Si stabilisce comunque in questo modo una forma, se vogliamo, una dialettica tra questa parola e il suo altro, che è il silenzio. Una dialettica che diventa, può diventare armonica. E armonica diventa quando il silenzio, facendosi ascolto, e questo è stato sottolineato, appare come una delle due facce del concreto dire. Ancora credo che si potrebbe riflettere sul fatto che il silenzio, proprio perché non è mai un dire determinato, può acquistare singolari valenze che non sono escluse dal dire, ma che il dire qualche volta mette in secondo piano, che sono quelle della capacità dell'allusione. L'allusione è illimitata. Può anche però, appunto, il silenzio un diventare o un rendere muti, quando questa alterità degenera in contrapposizione e il silenzio, oppure la chiacchiera, che del silenzio è semplice dissimulazione, diviene il modo del sottrarsi all'uomo, ma anche del sottrarsi a Dio. Così che il silenzio, in questa prospettiva, ecco, si presenta in quella costellazione che possiamo dire della tenebra, e possiamo dire proprio col nome cristiano di peccato. Un Dio che crea, e dunque questo Dio che crea con la parola, che crea dicendo, e che dunque crea un uomo come evocato. Ecco, creazione come evocazione. La creazione mediante la parola è il porre una realtà che, diciamo, anche questa è una suggestione, persona. Persona proprio perché è un personare, è quasi far eco, un risuonare della voce originaria. Un eco che è risposta responsabile al Dio che chiama. Dobbiamo tenere presente che ciò che Dio ha creato, cioè il termine ultimo, pieno, definitivo della creazione, altri non è che Gesù, il Logos incarnato. Alla creazione, alla pienezza, alla totalità, alla ricchezza piena dell'atto creatore, risponde la pienezza del creato, che è il Cristo. Questo mi pare essenziale sottolineare. Così che l'uomo, posto dal dire di Dio, è un esser detto sul fondamento di quel creativo originario dire contraddicente. Il contra che può diventare quello che è davanti, camminare davanti a Dio. Essere davanti a Dio è la formula biblica e può comunque concretizzarsi in forme estreme. L'una, quella del contraddire il peccato, e l'altra, quella di quel rapporto che in Gesù è colto e significato, soprattutto da Giovanni, come la ubbidienza, anche da Paolo, lettera ai Filippesi. Ebbene, proprio in questa prospettiva altre sollecitazioni sono apparse in questi giorni. Mi riferisco per esempio alla comunicazione di Vannini, alla interpretazione di Vannini. Non posso ovviamente sostare, ma le sue affermazioni che Dio è parola, la sua interpretazione è cartiana, no? Dio è parola. L'uomo che diventa principio della parola. E sono affermazioni quanto mai complesse, ma direi cristianamente equivoche, perché c'è una interpretazione possibile quella cristologica, nella quale direi del cristianesimo la visione cristiana si appaga. C'è un'altra, antropocentrica, e allora sarebbe quella che ha suscitato la reazione contro la mistica della teologia dialettica e che credo debba inevitabilmente, insuperabilmente suscitare la reazione di chi si riconosce nella fede cristiana. Ma proprio in questo è mia impressione si presenti, non altrove, qui si presenta la crux teologiae. Ebbene, ora permettetemi, sono persino contento che non ci sia la folla qui, proprio perché quello che sto per dire acquisti più chiaro, proprio il senso e l'intonazione di una professione personale. Ebbene, di questa crux teologiae, sensibile, appassionato, profondo testimone, è un personaggio che è presente, che ci ha veramente così, in questi giorni, ci ha illuminato, il professor Alberto Caracci. Sì, è vero, sulla scia di quello che gli stesso indica come interlocutori pericolosi e fecondi del discorso teologico, e non sono, insiste, i Feuerbach o altri, ma sono i rappresentanti della liberalità, Schleiermacher, Tölz, Jaspers, Heidegger. Ebbene, questa mia dichiarazione vuole essere non soltanto un grato riconoscimento al professore, ma vuole essere la dichiarazione di quello che io sento come una colpa della teologia italiana. Non aver riconosciuto in lui un suo interlocutore efficace, stimolante, fecondo. Non può essere questa una riparazione, ma almeno una testimonianza, sì. Ebbene, quello che io ora voglio proporre è una serie di interrogativi, e concludo con questo, se il tempo è esaurito. Sì, ma se concludi... Concludo velocemente. Soltanto una serie di interrogativi. Gli interrogativi proprio che sono stati sollevati esplicitamente. Bene, il discorso, direi, della equivocità nella quale oggi è caduto il termine, forse fortunatamente è caduto il termine di credente. Il problema del rapporto, del colloquio che oggi deve istituirsi e non può non istituirsi tra colui che crede nella forma di una confessione e colui che crede nella forma, non so come dire, della laicità, ma che è una laicità che è assolutamente, costitutivamente e fondamentalmente aperta al religioso. Ebbene, che cosa ci chiede? Che cosa? E questo lo dico proprio ai teologi, lo dico a me, lo dico ai miei colleghi, ai miei amici. Che cosa ci si chiede oggi? Ma che cosa esige in fondo la nostra posizione? Proprio di accettare quel colloquio nel quale anzitutto noi dobbiamo rendere ragione di quello che, non senza plausibili fondamenti, è stata a volte indicata come la presunzione o l'arroganza o almeno l'eccessiva sicurezza del credente. Ecco, noi dobbiamo chiederci allora quale può essere veramente la nostra posizione in questo colloquio. Io credo che la si debba misurare attraverso un ripensamento profondo di quello che è il senso del Cristo, il senso che noi, il valore che noi attribuiamo al Cristo, la centralità che noi attribuiamo al Cristo, e attraverso la riflessione e la meditazione di quello che sono i termini strutturali del nostro discorso. Rivelazione, fede. Dobbiamo in questo colloquio chiederci che cosa significa per il credente la sua confessionalità, che cosa per lui la verità, la certezza, il dubbio. Dobbiamo chiederci, ma radicalmente, con senso di profonda responsabilità, che cosa significa per noi accettare il colloquio, con quale sincerità noi possiamo accettare un colloquio nel quale non è possibile avanzare riserve e dire io mi metto in questione fino a questo punto. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo pensare a quanto possa esserci di dogmatico nella presunzione, nella presentazione di una universalità che a volte un certo pensiero laico facilmente avanza come realtà acquisita piuttosto che come il termine sempre criticamente presente rispetto a qualsiasi realizzazione, a qualsiasi concretizzazione delle nostre posizioni, delle esistentive e del nostro pensiero. Io mi chiedo però se il cristiano non sia chiamato proprio a questo, ad aver fede in un valore che egli riconosce e confessa presente, ma un valore che non soltanto non gli permette di affermarsi lui, il credente, come un beato possidente, ma piuttosto lo chiama continuamente alla conversione, così che il colloquio sia non una presunzione di possesso, ma piuttosto un mettersi in gioco per realizzare, forse nell'approfondimento, direi, della propria singolarità, della propria realtà, ma mai posseduta, direi sempre donata nel processo della conversione, ecco proprio quel il cammino, l'essere come cammino verso questa universalità. Ecco, mi domando se non siano proprio questi i temi che ci permettano un vero, genuino confronto, temi nei quali, e finisco proprio, no? Si dà un altro peso a quello al quale noi siamo tradizionalmente abituati, alla problematicità, ma se volete al dubbio, se volete all'ateismo. Ecco, parlare e tacere significa anche colloquiare. Io credo che la teologia sia oggi chiamata a questo colloquio, questo rappresenti per essa il, direi, la prova di paragone della sua possibilità di presentarsi così nell'agorà, là dove gli uomini vivono, sperano, soffrono, godono, cercano, là dove gli uomini si realizzano, proprio nella loro genuinità umana, che il cristiano ritiene sempre una genuinità non soltanto segnata, ma costituita su questa presenza sempre promettentesi, sempre inafferrabile, ma già sempre donata. Ringraziamo il professor Boff per le sue riflessioni appassionate, ma portatrici anche delle stimmate di una grande suggestività e allusività. Lo ringraziamo anche per aver instaurato un dialogo serrato con alcune delle relazioni e comunicazioni presentate nei giorni precedenti. Il tempo è portatore di una tirannide contro la quale si rivela inutile ogni lotta e costringe a delle scelte. E ogni scelta è inevitabilmente anche una perdita di qualcosa. Noi abbiamo scelto di far parlare tutti coloro che avevano un messaggio da portare e quindi questo è andato a detrimento di un dialogo che però ha avuto luogo sotterraneamente fuori da questa aula e che comunque, sia pure a livelli minimali, c'è stato e ha percorso tutte e tre le giornate.